che ci siamo conosciuti, eri strano e emozionato, quanto tempo è già passato. Mi piaceva il tuo coraggio, la pazienza del tuo amore, e con te mi son trovata bene a vivere, a pensare. Ed inverno quante sere siamo stati ad inventare per il figlio che volevi un nome grande. Era bello andare avanti con niente ma insieme. Sognare è difficile passare, anche dopo tanto tempo io ti vedo come allora, un po' allegro, un po' scontento, un po' tenero e violento, di parole mica tante, ma io non me ne lamento. È la voglia di sognare che ci fa dimenticare una vita fatta solo di giornate ad aspettare, un minuto dopo l'altro, perduti ma insieme. Voglio stare, della vita mi accontento e mi sembra di aver tutto solo avendoti qui accanto. È la voglia di sognare che ci fa dimenticare una vita fatta solo di giornate ad aspettare, un minuto dopo l'altro, perduti ma insieme. Se non puoi dimenticare quell'età del nostro amore, quando per portarmi un fiore ti scordavi di mangiare, è la voglia di sognare, è la voglia di sognare, è la voglia di sognare.